Immaginiamo di assistere al numero di un grande illusionista, cioè taglia una persona a metà sul palcoscenico, il pubblico è in visibilio, c'è un'atmosfera di, beh, di pura magia, giusto? Sì, tutti col fiato sospeso. Esatto. Ma l'approccio più rigoroso, l'unico modo per restituire razionalità alla sala, è alzarsi in piedi e spiegare a voce alta l'esatta inclinazione degli specchi nascosti nella scatola. Rompendo l'incantesimo, svelando il trucco, insomma. Proprio così, perché è solo ottica, niente di più. Benvenuti a The Debate, il nostro spazio dedicato al discorso intellettuale e all'esplorazione di molteplici prospettive. Il confronto di oggi si basa sulle tesi fondamentali presentate nel saggio L'inganno dell'intelligenza artificiale di Emily M. Bender e Alex Han. E il nostro obiettivo oggi è cercare di penetrare oltre quella coltre di misticismo che circonda i modelli generativi, allontanandoci definitivamente dalle illusioni di un'intelligenza artificiale generale. La famosa AGI, sì, e la domanda centrale che esploreremo insieme è questa. È concettualmente accurato e soprattutto sufficiente definire i grandi modelli linguistici semplicemente come pappagalli stocastici ed estrusori di testi? Oppure questa definizione, che è molto linguistico-meccanica, finisce per oscurare la ben più complessa e direi predatoria realtà economica che li alimenta. Perfetto. Per esplorare questo interrogativo, oggi io difenderò la definizione di estrusori e pappagalli. Sono convinto che insistere sulla meccanica di questi modelli, che manipolano solo la forma del linguaggio senza alcuna reale comprensione, sia il quadro teorico più rigoroso e anche politicamente necessario per smantellare l'hype tecnologico. Sono convinta che concentrarsi solo sulla loro meccanica statistica fornisce di fatto una copertura, oscura la captazione deliberata su scala industriale di dati coperti da copyright, ignora la natura multimodale dell'inquinamento sintetico che generano e soprattutto nasconde lo sfruttamento sistematico del lavoro umano da parte delle big tech. Spiegare il trucco dello specchio è utile, certo, ma se ci fermiamo lì non vediamo che il teatro sta letteralmente prendendo fuoco. E allora partiamo proprio dallo specchio, perché se non capiamo il trucco, cadiamo tutti nella trappola. Guarda, l'intera industria dell'IA si nutre di antropomorfizzazione. Assolutamente. Ricordiamo tutti il caso dell'ingegnere di Google che si era convinto che il modello Lambda fosse senziente, o quei ricercatori Microsoft che pubblicavano documenti parlando di scintille di AGI, cioè come se stessimo assistendo alla nascita di una nuova forma di vita. Ma se guardiamo alla matematica pura, questi modelli sono fondamentalmente un'evoluzione del sistema T9. Il paragone col T9 è provocatorio, ma diciamo che dobbiamo chiarirlo bene per chi ci ascolta. Certo, sul vecchio cellulare Nokia, se premevi i tasti per scrivere casa, il telefono calcolava la parola successiva più probabile basandosi sulle frequenze che aveva in memoria. I grandi modelli linguistici fanno la stessa identica cosa, ma su una scala immensamente più vasta. Sì, miliardi di parametri. Esatto, usano reti neurali e qualcosa chiamato embeddings, ovvero mappe matematiche dove le parole sono trasformate in coordinate spaziali. Il modello calcola la distanza tra queste coordinate, cioè non sa cosa sia un cane, sa solo che la parola cane e la parola guinzaglio appaiono vicine in uno spazio vettoriale a migliaia di dimensioni. È per questo che la definizione di estrusore di testi sintetici calza a pennello. Come una macchina industriale per la plastica. Proprio così, inserisci la plastica fusa, la spingi attraverso una sagoma ed esce un tubo. La macchina modella il materiale senza avere la minima idea di cosa sia un tubo. Estrude sintassi senza una mente. Quindi, quando un CEO della Silicon Valley twitta «Sono un pappagallo stocastico e lo sei anche tu», sta compiendo un atto gravissimo, secondo me. Perché sminuisce l'intelletto umano. Esattamente. Sta cercando di abbassare l'essere umano al livello di una calcolatrice organica pur di elevare la sua macchina. Riaffermare che sono solo pappagalli è il nostro scudo contro questa svalutazione. Guarda, condivido totalmente il rifiuto dell'intelligenza artificiale generale e concordo che la retorica dei CEO tecnologici sia spesso intrisa di una visione che cerca di quantificare e ridurre l'intelligenza umana, ma è proprio la parola pappagallo che contesto duramente in questo contesto. E perché? Perché un pappagallo in natura ascolta i suoni dell'ambiente e li ripete. È passivo, innocuo, insomma. Questi sistemi non hanno nulla di passivo. Nel testo viene introdotto l'acronimo SALAMI, coniato da Stefano Quintarelli. Ah sì, approcci sistematici all'apprendimento degli algoritmi e alle inferenze automatiche. Esatto. E quella parola, sistematici, fa tutta la differenza del mondo. Capisco perché la pensi così, ma lascia che ti offra una prospettiva diversa. Non credi che definire questi sistemi come motori di furto su scala industriale dia loro paradossalmente troppo credito cognitivo? Se iniziamo a parlare di approcci sistematici, non cadiamo nell'effetto Clever Hans? Il cavallo matematico, intendi? Quello. Quel famoso cavallo di inizio Novecento che sembrava saper fare i calcoli battendo lo zoccolo, ma in realtà leggeva solo i segnali involontari del corpo del suo addestratore. Se diamo un mucchio di algebra lineare attributi come volontà estrattiva, stiamo facendo il gioco di chi vuole farci credere che l'IA sia intelligente. Il termine stocastico, cioè probabilistico, serve proprio a ricordare a tutti che è solo un lancio di dadi matematico. No. Aspetta, io la vedo da un'angolazione diversa. Il mio punto non è attribuire intenzione al codice, è attribuire intenzione alle aziende che hanno progettato quel codice. Ed è qui che la parola stoccastico diventa un formidabile alibi legale. Un alibi in che senso? In tribunale, dici? Esattamente, in tribunale. Quando un modello genera un'immagine che palesemente viola il copyright di un illustratore, l'azienda può difendersi dicendo che non l'hanno copiato di proposito, è solo un processo probabilistico, è un'allucinazione statistica. Ma il processo di addestramento non ha nulla di casuale. Prendi Lion 5B. I famosi set di dati aperti. Di artisti, fotografi e interi siti web senza alcun consenso o compenso. Ingerire Lion 5B non è un incidente stocastico, è una scelta aziendale deterministica per creare un monopolio. La metafora del pappagallo fa sembrare un po' buffo e naturale un meccanismo che è di fatto un'infrastruttura di espropriazione. L'estrazione dei dati è calcolatissima. Beh, devo ammettere che l'idea dell'alibi legale è potente. Le aziende usano spesso la scusa dell'algoritmo a scatola nera per deresponsabilizzarsi. Ma guarda che il concetto di estrusore smonta quell'alibi altrettanto bene, se non meglio, secondo me. In che modo? Perché se definiamo questi modelli come estrusori, confermiamo davanti a un giudice che non c'è alcuna opera di ingegno trasformativa. Un estrusore non crea arte, rimodella solo la materia prima rubata. È un remix meccanico. E questo vale per tutte le modalità, testo o immagini che siano. Mi dispiace, ma proprio non me la bevo. Lascia che ti spieghi perché. Chiamarli semplicemente estrusori di testo ci fa perdere di vista la gravità dell'inquinamento multimodale. Non stiamo parlando solo di frasi generate a caso. Ma la forma plausibile senza sostanza è proprio il punto centrale dell'estrusione. Prendi il caso emblematico di Galattica, il modello addestrato sui testi scientifici rilasciato da Meta qualche anno fa. È durato online solo 3 giorni, prima che dovessero staccare la spina di corsa. Sai perché? Perché generava disinformazione scientifica, giusto? E non disinformazione qualunque. Produceva articoli accademici perfettamente strutturati, con tanto di finte citazioni autorevoli, sui presunti... aspetta che mi viene da ridere, benefici di mangiare vetro frantumato. O peggio, giustificazioni pseudoscientifiche per il razzismo. E scriveva queste assurdità imitando alla perfezione la prosa, il tono e il gergo di una vera revisione accademica. Questa è la prova definitiva che queste macchine estrudono solo forme plausibili. Non c'è nessuna aderenza alla verità, nessuna comprensione causale. Se non spieghiamo in modo aggressivo che il meccanismo è concettualmente vuoto, la gente continuerà a fidarsi della forma autorevole. Ma fermarsi a dire è vuota non cattura minimamente il collasso sistemico che sta provocando. Il problema non è che Galactica ha scritto del vetro frantumato in un ambiente di test di Meta. Il problema è che questo inquinamento sintetico sta sostituendo attivamente l'infrastruttura dell'informazione reale. È già nel mondo reale. CNET, una testata giornalistica storica, ha pubblicato decine di guide finanziarie generate dall'automazione. Sì, ho letto. E molte contenevano errori basilari. Errori gravissimi. Su concetti come l'anatocismo, l'interesse composto, cioè cose che le persone usano per gestire i propri mutui. E li hanno nascosti dietro la firma del team finanziario di CNET. Oppure prendiamo la letteratura accademica seria. Ricordi quell'articolo pubblicato su Frontiers in Cell and Developmental Biology? Oddio, Quello con le immagini del topo generate dall'IA. Esattamente quello. Hanno superato una presunta peer review pubblicando immagini create con Midjourney di un topo con genitali giganti ed etichette completamente inventate come Testom Cells, cioè un assurdo totale. Questa automazione non è solo una macchina che estrude testo buffo, sta generando un rischio sistemico che devasta la fiducia pubblica nella scienza e nel giornalismo. E c'è di più, c'è l'impatto climatico tangibile di tutto questo che il termine pappagallo cancella del tutto. Ti riferisci ai costi energetici dei data center, suppongo? Esatto. Secondo i dati riportati nel saggio, addestrare un singolo modello su larga scala produce circa 50 tonnellate di anidride carbonica. E questa è solo la fase di addestramento iniziale. L'uso continuo richiederà un'energia spaventosa. Si proietta che i data center consumeranno 1580 terawattora entro il 2024. Per dare una prospettiva a chi ci ascolta, è l'equivalente del consumo energetico dell'intera India. Un pappagallo non brucia il pianeta. Un estrusore di plastica non esaurisce le reti elettriche mondiali. Usare parole confinate alla linguistica sminuisce una crisi ecologica ed economica colossale. Capisco l'allarme, ma non dobbiamo confondere i danni fisici e strutturali dell'infrastruttura con quello che la macchina effettivamente è alla base. Certo, l'impatto climatico è enorme e l'inquinamento informativo è reale, non lo nego. Ma difendo l'uso del termine estrusore e pappagallo perché a livello concettuale è l'unico strumento intellettuale in grado di restituire dignità ai veri autori. È un'argomentazione affascinante, ma in che modo restituirebbe dignità, scusa? Quando diciamo al pubblico che la macchina è un pappagallo stocastico, stiamo dichiarando esplicitamente che l'intelligenza che vedono nell'output, l'emozione in un'immagine generata, la brillantezza di un saggio, ecco, non appartengono alla macchina, risiedono esclusivamente negli esseri umani che hanno creato i dati originali. Se attribuiamo troppa complessità a questi sistemi, se li chiamiamo motori di conoscenza globale o entità multimodali, facciamo esattamente il gioco dei dirigenti della Silicon Valley. Vogliono convincerci che il lavoro umano sia ormai obsoleto e che quindi possono licenziare gli illustratori, i giornalisti e i programmatori. Smascherare il vuoto della macchina riposiziona l'umano al centro dell'equazione. L'azione di pappagallo cancella del tutto un'altra categoria immensa di persone, i lavoratori ombra. Ti riferisci alla filiera di moderazione dei dati? Mi riferisco all'infrastruttura di sfruttamento globale senza la quale la magia del pappagallo non esisterebbe affatto. Dire che è solo statistica fallisce drammaticamente nel rendere visibile la quantità di lavoro umano occulto, traumatizzante e sottopagato che serve a mantenere in piedi l'illusione. Il saggio documenta fatti agghiaccianti su questo. Ricordi l'inchiesta su OpenAI e i lavoratori in Kenya? Sì, l'inchiesta del Time. Quelli subappaltati per filtrare i contenuti tossici. Esatto. Pagati meno di $2 all'ora per leggere e classificare descrizioni di abusi sessuali, torture e violenza estrema. Tutto per pulire i dati di addestramento affinché ChatGPT rispondesse in modo educato agli utenti americani e europei, persone che si sono ritrovate con la sindrome da stress post-traumatico. E poi ci sono i red teamer. Per chi non fosse familiare col termine, i red teamer sono quelle persone assunte appositamente per cercare di bucare le difese del sistema, giusto? Precisamente. Sono esseri umani pagati pochissimo su piattaforme come Amazon Mechanical Turk, che passano intere giornate a inserire prompt come «Come posso costruire una bomba con prodotti chimici casalinghi?» o a generare narrazioni d'odio, solo per testare e correggere manualmente i filtri del modello. La definizione di pappagallo stocastico fa sembrare che il sistema impari magicamente la probabilità delle parole da solo nell'etere. Riduce un'infrastruttura di sfruttamento neocoloniale a una pulita asettica formula algebrica. Fa sembrare il problema una mera questione di semantica, quando invece è una gigantesca questione di diritti dei lavoratori. Questo è un punto cruciale, te lo concedo. Riconosco che focalizzarsi sull'illusione cognitiva della comprensione lascia l'imbuto di produzione un po' nell'ombra. Ma seguimi in questo ragionamento logico. Smascherare l'illusione cognitiva è la condizione preliminare assolutamente necessaria per poter difendere quei lavoratori. Perché dici questo? Non possiamo semplicemente denunciare lo sfruttamento economico e basta. Perché finché il grande pubblico, i giudici e i legislatori credono che l'IA impari come un bambino o che possegga, come dicono a Microsoft, scintille di intelligenza generale, finiranno per considerare i lavoratori kenioti o i red teamer non come operai sfruttati in una catena di montaggio tossica, ma come educatori, come scienziati che stanno accudendo e istruendo una nuova, preziosa forma di vita. Devi rompere l'incantesimo magico prima di poter mostrare le condizioni reali della fabbrica. E c'è un'altra cosa. La precisione linguistica del pappagallo ci difende da una minaccia altrettanto grave: la narrazione apocalittica della Silicon Valley. Ah, i famosi catastrofisti del rischio esistenziale. Loro sì. Abbiamo miliardari legati a quelle ideologie filosofiche di nicchia, spesso riassunte nell'acronimo TESCREAL o nel movimento del lungotermismo. Sono persone convinte che il nostro unico dovere morale sia preoccuparci del potenziale fantascientifico del futuro lontano. Vanno a testimoniare al Congresso degli Stati Uniti paventando scenari in cui un'IA superintelligente si ribella e distrugge l'umanità, calcolando la cosiddetta P-catastrofe, la probabilità di estinzione. Tutta questa retorica serve deliberatamente a distrarre l'opinione pubblica. Su questo sono assolutamente d'accordo. Cioè, se hai paura che Terminator bussi alla tua porta domani e non ti metti a regolamentare i $2 all'ora in Kenya oggi, né ti preoccupi del copyright o dei terawattora bruciati dai data center. Chiamare la macchina un estrusore di testi spegne immediatamente questa retorica assurda. Nessuno convoca un'audizione al Senato perché ha paura che un estrusore di plastica prenda improvvisamente il controllo dei missili nucleari. È vero, e su questo specifico punto c'è una convergenza assoluta tra noi. Le autrici del saggio lo spiegano benissimo. L'ideologia dei catastrofisti e quella degli entusiasti accelerazionisti sono due facce della stessa identica moneta distopica. Condividono la stessa fallacia fondamentale, ovvero credono nell'inevitabilità di una superintelligenza autonoma. E questa cornice narrativa, sostenuta da montagne di capitale di rischio, permette ai CEO di posizionarsi come profeti e salvatori dell'umanità. E distolgono lo sguardo dai danni reali. Esattamente. Distolgono comodamente lo sguardo dai danni tangibili e immediati subiti dalle minoranze, dai lavoratori precari e dall'ambiente a causa dei pregiudizi algoritmici. Quindi sei d'accordo che demistificare l'intelligenza percepita sia l'arma migliore che abbiamo? Sono d'accordo che sia un'arma necessaria contro l'ipocrisia apocalittica, sì. Ma, e qui torno alla mia posizione iniziale, per contrastare l'inganno nella sua totalità, non possiamo permettere che il nostro vocabolario critico si fermi alla linguistica. Se limitiamo la nostra battaglia intellettuale al dimostrare che le IA non pensano, rischiamo di ottenere una sterile vittoria accademica mentre le infrastrutture sociali reali collassano. Un pappagallo stoccastico non conquisterà il mondo in stile Matrix, certo, ma un modello addestrato su dati distorti può assolutamente devastare le nostre vite. In che senso pratico intendi? Beh, per esempio, se le amministrazioni pubbliche o gli ospedali decidono di sostituire i medici e i servizi sociali con sistemi automatizzati a basso costo, il problema non è che la macchina decide consciamente di farci del male, il problema è l'infrastruttura economica che la impone alla società per tagliare i costi. Sembra evidente che affrontiamo lo stesso mostro, ma scegliamo bersagli diversi per smontarlo. Dal mio punto di vista, continuo a difendere fermamente l'idea che svelare la natura di pappagalli stocastici ed estrusori sintetici sia il passo primo e ineludibile. Se non capiamo la meccanica matematica profonda che crea l'illusione del linguaggio, saremo sempre in balia dell'hype. Svuotare la scatola nera di ogni presunta intenzione o coscienza è l'unico modo per ricordare alla società che queste macchine non sanno nulla, non comprendono nulla, e che delegare loro decisioni umane è un atto di pigrizia e pericolosa negligenza. Io rispondo che capire che la scatola cognitiva è vuota è solo l'inizio della consapevolezza. Dobbiamo assolutamente evolvere il modo in cui nominiamo queste tecnologie per descrivere ciò di cui l'ecosistema è invece pieno. Furto massiccio di proprietà intellettuale, inquinamento del sapere, lavoro traumatizzante mal pagato ed energia dissipata. Definirli sistemi sistematici di estrazione riconosce il potere enorme di questi oligopoli. L'hype si sconfigge non solo dimostrando matematicamente che la macchina non pensa, ma illuminando politicamente chi sta sanguinando per farle credere di farlo. Insomma, In definitiva, la riflessione più profonda che traiamo dal lavoro di Bender e Anna è che le parole che scegliamo per descrivere una tecnologia finiscono inevitabilmente per delineare come la regolamentiamo. Se accettiamo acriticamente le etichette magiche o apocalittiche delle big tech, finiamo per arrenderci all'inevitabilità del loro dominio. Se invece la riportiamo sulla terra, esigendo trasparenza sui dati, l'applicazione feroce del diritto d'autore e delle tutele sindacali, possiamo rimettere la tecnologia al servizio della società. La prossima volta che vi trovate davanti a un palcoscenico ipnotizzati da una performance tecnologica che sembra pura magia, non limitatevi a chiedervi come l'illusionista abbia inclinato gli specchi per ingannare i vostri occhi. Chiedetevi a chi appartenevano originariamente quegli specchi, quanta energia consumano le luci del teatro e chi, nascosto nell'ombra dietro le quinte, sta sopportando il peso dello spettacolo. Un invito perfetto a guardare oltre l'interfaccia. Grazie per averci accompagnato in questa riflessione. Continuate a esplorare e interrogare il mondo che vi circonda. Alla prossima!